do il benvenuto a Matteo Dominioni. Ciao Matteo, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, grazie a voi dell'invito. Allora Matteo, siamo qui per parlare del corso che terrai all'interno della libreria Punto Input qua a Bologna. Il corso si chiama Per una storia del colonialismo italiano. Innanzitutto, quando parte e che cosa offre questo corso? Il corso parte questo venerdì e sono 3 appuntamenti e ho cercato di studiare un programma in maniera tale da avere una visione del colonialismo italiano sul lungo periodo, agganciandoci anche alle parabole coloniali di altre potenze, quindi attraverso una comparazione. E in quest'ottica abbiamo deciso di fare 3 distinti appuntamenti. Ci puoi raccontare appunto questi 3 appuntamenti, in che cosa consistono e di che cosa si parlerà di volta in volta? Nel primo tratterò la cosiddetta teoria coloniale, che è una teoria del pensiero economico che si sviluppò a partire dalla metà dell'Ottocento, che era insegnata anche nelle accademie italiane negli anni 30 del secolo scorso, ed è abbastanza curiosa perché è una disciplina di tipo classico che insomma, diciamo, fa da sponsor alle potenze coloniali per diversi anni. E è interessante vedere il caso italiano, dove gli studi erano piuttosto avanzati, ma di questa teoria coloniale poi nella cosiddetta colonizzazione e lo sfruttamento coloniale non c'è spazio, quindi c'è un deciso, diciamo, discontinuità tra la teoria e la pratica. Il secondo incontro sarà riservato a un'analisi dei vari modelli politico-amministrativi del colonialismo, nel senso lato, cioè non solo l'Italia, per arrivare a fare sempre una comparazione con i nostri modelli. E una terza data sarà riservata al crimine di guerra dell'Italia fascista, principalmente nel Corno d'Africa, che è il tema di cui io sono più afferrato, ecco. E poi ci sarà un quarto incontro, una tavola rotonda, in cui si discuteranno, credo, neanche tutte le questioni affrontate nel corso, ma questioni di una più ampia portata relativamente al postcolonialismo. Ci sarà appunto, come dicevi tu, questo quarto incontro che chiuderà un po' il ciclo, per cui è previsto appunto una tavola rotonda che proverà a portare anche nell'attualità, no, il discorso sul colonialismo, per capire anche il senso politico del parlarne oggi. Ci vuoi raccontare qualcosa di questo ultimo incontro, se ti va? Beh, l'ultimo incontro penso sarà sicuramente stimolante, nel senso che io mi occupo di storia militare, quindi di un aspetto specifico del colonialismo, mentre le altre persone che parteciperanno alla tavola si sono occupate di questioni culturali, questioni di genere e di diciamo permanenze culturali nella cultura italiana relativamente al passato coloniale, ecco. Quindi credo verranno affrontati temi come la continuità culturale o certe permanenze che notiamo tutti i giorni, dall'andare al supermercato alla toponomastica, addirittura quello che viene scritto su alcuni libri, addirittura le celebrazioni, inaugurazioni di monumenti, ecco. Diciamo che da quel lato come paese siamo piuttosto indietro. Perfetto Matteo, io ti ringrazio e ricordo ancora una volta che dal 12 novembre al Punto Input partirà il tuo corso Per una storia del colonialismo italiano. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie della chiacchierata.